Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo dalla borsa. Oggi parleremo molto di banche. Da un lato c'è il vertice alle 18 al Ministero dell'Economia e c'è anche la vicenda Monte dei Paschi, intesa come vicenda giudiziaria, che quindi non c'entra con il presente del Monte dei Paschi di Siena, ma con il passato e quindi con tutto insieme di rinvii a giudizio per gli imputati del caso Monte dei Paschi, accusati di aver architettato e portato a termine un insieme di operazioni finanziarie ritenute irregolari, con cui sarebbero state sostanzialmente occultate le perdite da parte della banca senese per l'operazione su Anton Veneta. Anton Veneta è la madre di tutti i problemi del Monte dei Paschi, come ormai abbiamo capito da anni, nel senso che viene pagata una cifra quasi tre volte superiore a quello che poi viene rivenduto al valore di mercato, e sono stati comunque rinviati a giudizio gli ex vertici del Monte dei Paschi, quindi Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, e quindi ex presidente, ex direttore ed ex responsabile dell'area finanza dell'Istituto di Credito Toscano. E poi il dibattimento riguarderà anche la Nomura International, la Deutsche Bank AG e la sua filiale londinese. Prenderà il via il prossimo 15 dicembre. Le accuse, a vario titolo, sono falso in bilancio, aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza. Ne parleremo perché c'è in mezzo sia l'operazione derivati Santorini e Alexandria e anche il prestito ibrido Fresh, oltre che la cartolarizzazione Chianti Classico. In questo modo, secondo l'accusa, sarebbero stati indicati centinaia di milioni di euro di utili mai prodotti effettivamente. Tra l'altro, allo stesso tempo si sarebbero anche occultate perdite miliardarie con dati di bilancio truccati per oltre 2 miliardi di euro. Ora, faccio notare, visto che tanto me lo chiederete, che il nuovo numero uno, Jacopo Morelli, che era stato direttore finanziario del Monte dei Paschi durante anche la gestione Mussari, mentre se n'era andato per contrasto sulle operazioni Santorini e Alexandria, stando alla ricostruzione che abbiamo, sul confezionare il derivato Fresh, invece, quello per l'operazione attualmente, ebbe un ruolo attivo, e su questo vi sono critiche oggi su alcuni giornali, cito soprattutto quella di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, una opaca vicenda bancaria relativa proprio al Monte dei Paschi di Siena, e poi invece anche un articolo del deputato PD, ex collega, o tuttora collega, Massimo Mucchetti. Cioè l'idea dell'opacità non riguarda però la gestione che è sotto investigazione della magistratura, ma riguarda il presente in questo caso, e cioè perché scegliere solo JP Morgan e quanto costano le commissioni di JP Morgan, perché non c'è trasparenza sull'accordo, sulla proposta fatta da JP Morgan al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ormai lo sappiamo a tutti gli atti, a tutti gli effetti, ha poi portato alla richiesta da parte del Ministero del Tesoro di far dimettere Fabrizio Viola come amministratore legato al Monte dei Paschi, e siccome la richiesta era arrivata al presidente del Monte dei Paschi nel tempo, Tononi, anche Tononi dopo poco si è dimesso. Un po' è rituale il meccanismo, in effetti, perché è vero che il Tesoro ha il 4%, ma non è l'azionista di maggioranza, ma soprattutto sarebbe giusto sapere qual è l'accordo con JP Morgan e anche avere una riflessione un po' più approfondita su queste commissioni, che sono molto molto alte. Poi ne faremo il calcolo. Quindi due elementi, uno sul presente e uno invece sull'inchiesta della magistratura. Per quello che riguarda le altre notizie, ci occuperemo anche dei dati oggi dell'Istat, che corregge la stima sulla crescita economica. Oggi, per quello che riguarda le borse, Francoforte è chiusa, e quindi c'è Parigi più invariata in questo momento, Londra più 1,30%, Milano meno 0,90%. Londra fa più 1,30% nel giorno in cui invece la sterlina è in calo, è vicina ai minimi degli ultimi 31 anni, il pound è sceso a 0,8, ha perso quasi un punto percentuale, a 1,28 contro il dollaro, e anche verso l'euro è a 0,87%. siamo nei confronti dell'euro ai minimi da 3 anni a questa parte per la sterlina britannica. Visto che parlavo di valute e di mercati, diamo anche l'andamento dei titoli principali: A2A meno 3,90, Luxottica meno 3,20, Intesa San Paolo meno 2,50, Pop Emilia Romagna meno 2,20, bene invece Azimut più 4%, Pop Milano più 2,91, Mediolanum più 1,30 come Fiat Chrysler, e il Banco Popolare guadagna l'1%, invece Iux più 0,80%. Euro su dollaro quota 1,12. Dicevo quindi, Monte dei Paschi da un lato, il super vertice del Ministero dell'Economia sul sistema bancario, in cui vi sarà tra poco sia il Ministro dell'Economia Padoan che il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, con i vertici di Unicredit, di Intesa e di UbiBanca, nonché rappresentanti delle casse di risparmio dell'ACRI, dell'ABI e del Fondo Atlante. Serve per capire, insomma, a che stato siamo su vari fronti: il Fondo Atlante sulle banche venete, quindi Veneto Banca e Popolare di Vicenza, le good bank nate dalle ceneri di Etruria, Marche, Casa Chieti e Ferrara, e poi appunto anche la vicenda del Monte dei Paschi. Tra i punti critici comunque anche la cessione delle 4 good bank e il valore da attribuire agli incagli che non sono stati trasferiti nella relativa bad bank. Il tema è un po' tecnico, cosa vuol dire? Vuol dire che gli incagli non sono ancora delle sofferenze. La sofferenza è quando i soldi che hai prestato non ti torneranno più indietro, devi scrivere la bilancio come una sofferenza. L'incaglio è un prestito difficile che ancora non è diventato una sofferenza, e si spera che non lo diventi. Questi prestiti difficili non sono entrati nelle bad bank, sono rimasti nelle 4 good bank, nelle banche rinate. E bisogna capire che valore attribuire a questi incagli. Detto questo, sarà appunto l'occasione per un check-up sullo stato di transizione del nostro sistema bancario, mentre segnalo che oggi, se ce la facciamo, ci occuperemo sicuramente anche di un settore industriale fondamentale per il nostro paese, e cioè la parte che riguarda l'occhialeria. Siamo leader a livello mondiale, e se ce la facciamo, se non rimandiamo domani, anche riprendiamo la vicenda della classifica di venerdì scorso, con quel caso all'ospedale di Vicenza e del primario sospeso dal lavoro. Lui si chiama Riboni, e dovremmo riuscire ad avere oggi il segretario del sindacato autonomo degli infermieri, che avevamo citato più volte. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo. Allora, volete sapere del bilancio sulle 24 ore? È tutto sull'agenzia di stampa. Avete visto le notizie, sono uscite tra venerdì e sabato, e oggi ne daremo atto con notizie anche notizie alle 24. Non ho altro da aggiungere. Per quello che riguarda invece altre domande che mi arrivano sulla Brexit, no, oggi novità queste non ce ne sono. Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker incontrerà a breve Theresa May, quindi il Premier britannico Theresa May. Lo ha annunciato lo stesso portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas. Lavoriamo in modo costruttivo sulla base dell'articolo 50. Quando arriverà la lettera, diciamo, britannica, siamo pronti a lavorare, ma fino ad allora nessun negoziato senza una notifica. Spostiamo in Germania, dove Deutsche Bank sarebbe vicino a un accordo con i sindacati per il licenziamento di circa 1000 dipendenti in Germania. E ancora, oggi è arrivata una critica anche da Sigmar Gabriel, che è vice cancelliere tedesco e leader dei socialdemocratici. Ha criticato la Deutsche Bank dicendosi stupito che la banca di Francoforte si lamenti per gli attacchi degli speculatori in borsa, pur essendo molto attiva nel campo proprio della speculazione finanziaria. Nel frattempo il colosso assicurativo ING, anche bancario, ha in programma di tagliare 5.800 posti di lavoro in 5 anni in Belgio e nei Paesi Bassi per ridurre i costi di gestione e poi sta premendo sull'acceleratore sul fronte della transizione al digitale con un investimento di 800 milioni. L'intervento sui dipendenti permetterà a ING di risparmiare circa 900 milioni di euro all'anno. Allora, tra i titoli, cito anche, ci mancherebbe, come sempre faremo i migliori e i peggiori, oggi il peggior titolo in assoluto a Piazza Affari per adesso, comunque è Il Sole 24 Ore, meno 12% a 44 centesimi di euro dopo la semestrale molto peggiorativa con una perdita di 49 milioni 800 mila euro che ha portato appunto anche alla dimissione di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono tutte notizie di stampa, le vediamo anche noi. Le notizie sono di venerdì e di sabato, così faccio contento chi dice non avrà mai il coraggio di ricordare la perdita del Sole 24 Ore, quello che è successo nel Consiglio di Amministrazione, l'ho appena ricordato, mi spiace deludere qualcuno. Tanto era ovvio, questo ci poteva stare, visto il tenore di certi messaggi in questi mesi. Allora, andiamo avanti con i dati sull'Italia. Istat, crescita acquisita 2016 rivista a ribasso allo 0,6%, era stimata allo 0,7%, e tra l'altro questo nella stima uscita lo scorso 2 settembre, anche il tendenziale, cioè anno su anno, fa più 0,7 per quello che riguarda il secondo trimestre, mentre non più 0,8%. La pressione fiscale nel secondo trimestre cala al 42,3%, cala anche parecchio rispetto all'anno prima che era al 42,7%. Il deficit nel secondo trimestre è un deficit buono, nel senso che è in miglioramento di 0,7 punti percentuali su base annua, e il rapporto è stato pari allo 0,2%. Infine, la cosa interessante è anche quanto fotografa l'Istat come propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, che è definita dal rapporto tra risparmio lordo e reddito lordo disponibile, è stata pari al 9,6% e è aumentata di quasi l'1%, è il valore più alto dai primi tre mesi del 2010. A questi dati sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Arrivano oggi dall'Istat alcuni dati moderatamente positivi sui conti pubblici. In primo luogo migliora il rapporto deficit-PIL, che nel secondo trimestre del 2016 è stato pari allo 0,2%, che è il livello più basso dal secondo trimestre del 2017 e fa segnare un progresso di 0,7 punti percentuali su base annua. Buone notizie anche sul fronte della pressione fiscale, cioè l'incidenza complessiva di tutte le entrate di tasse e contributi in rapporto al prodotto interno lordo. Nel secondo trimestre di quest'anno la pressione fiscale è stata del 42,3%, in calo di 0,4 punti. Il livello comunque resta molto elevato, questo è evidente, ma insomma questo miglioramento deve essere colto. In ogni caso dobbiamo aggiungere che si tratta di un miglioramento che non è dovuto alla riduzione del prelievo, infatti le entrate fiscali del periodo sono in aumento, quanto a un miglior andamento del prodotto interno lordo. A conferma comunque di un clima di incertezza, di aspettative non proprio improntate all'ottimismo, arriva invece il dato sull'aumento della propensione al risparmio delle famiglie, che torna a livelli record. Nel secondo trimestre del 2016 la quota di reddito risparmiata è salita al 9,6%, il valore più alto dal primo trimestre del 2010. Aumenta la propensione al risparmio e quindi resta modesta, bassa la spesa delle famiglie per consumi finali. Ancora una volta quindi arriva la conferma di una crescita dell'economia che resta molto debole. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo con il primo tema. Mi riferisco al vertice sul futuro, o anzi sullo stato dell'arte in questo momento di varie ristrutturazioni bancarie. Prima di tutto, visto che parliamo di banche, però ascoltiamo anche un passaggio. Oggi sono iniziate le audizioni al Parlamento sulla legge di stabilità, ma soprattutto sul DEF, su quello che era contenuto nel documento economico finanziario. Ed ha iniziato la Banca d'Italia, per voce del vice direttore generale di Banca Italia Luigi Federico Signorini. Ha detto: il PIL del 2017 è ambizioso, quello stimato dal governo, più uno, e occorre essere molto attenti e predisporre una manovra con grande, grande cura. Lo scenario macroeconomico tendenziale per il biennio 2016-2017 tiene conto in modo prudente del peggioramento del contesto esterno. Sulla base delle informazioni fino ad oggi disponibili, esso appare quindi condivisibile. I dati sui flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche sono fino a questo momento coerenti con la stima di disavanzo del governo per l'anno in corso. Nello scenario programmatico per il 2017, la dinamica del prodotto è significativamente maggiore di quella del quadro tendenziale. L'obiettivo è ambizioso, la previsione è basata su una composizione della manovra sulla quale la nota non fornisce informazioni di dettaglio. Per conseguire il risultato, la prossima legge di bilancio dovrà essere definita con grande cura. Con riferimento alle misure di sostegno alla crescita, sarebbe opportuno concentrare l'attenzione su quelle che possono favorire una rapida ripresa degli investimenti, sia privati sia pubblici. Per questi ultimi in particolare occorre assicurare non solo lo stanziamento di risorse, ma anche presidi per un efficiente e tempestivo loro utilizzo. Gli effetti recessivi delle necessarie coperture finanziarie potranno essere contenuti se si riusciranno a individuare sprechi da eliminare e a contenere i costi di funzionamento dell'amministrazione. Quindi dice: non ci sono abbastanza elementi per capire come raggiungerà il governo questi obiettivi. Sarà molto importante vedere il dettaglio della manovra, che dovrà indicarli in maniera molto precisa, anche perché alla Banca d'Italia sembra un po' ottimistico quell'obiettivo. E continua Signorini in audizione: a questo punto, se non si vogliono comprimere ulteriormente gli investimenti, ma si vuole mantenere questo obiettivo sui conti deficit in primo luogo, è indispensabile andare avanti con forza proprio sulla spending review, la revisione della spesa pubblica. Anche nel 2016, se le previsioni saranno confermate, l'incidenza delle spese primarie correnti sul PIL diminuirà lievemente, proseguendo la tendenza dell'ultimo biennio, correggendo per il credito d'imposta per i lavori dipendenti con redditi medio-bassi. Ritengo la riduzione della spesa un risultato importante, anzi indispensabile proseguire con sempre maggiore determinazione su questa strada se si vogliono tenere i conti pubblici sotto controllo, senza contare soltanto sul livello oggi eccezionalmente basso dei tassi di interesse, senza comprimere gli investimenti, il cui rilancio è invece necessario per la crescita. I progressi saranno tanto più intensi, solidi e duraturi quanto più gli sforzi di contenimento delle erogazioni realizzati negli ultimi anni saranno sistematici, inquadrati in un progetto capillare di lungo periodo di revisione della spesa. Allora, do un'altra risposta, ci mancherebbe, siamo uomini di mondo. Ricommenteremo i dati di bilancio sulle 24 ore, visto che oggi è il peggior titolo in borsa, come sempre per il commento della borsa. L'unica critica che non accetto, io ve li ricorderò di nuovo, è dire: ma come? Lei non si è accorto, ma scusate, ognuno qua fa un lavoro diverso, no? Io conduco un programma, male o bene, e altri fanno i manager, altri fanno gli editori, fine, no? Dopodiché, se volete sapere se siamo contenti che il gruppo perda, non lo è nessuno, ma non lo sarebbe nessuno in nessun gruppo al mondo, e quindi non lo siamo neanche noi. Non mi rallegro di nulla, a differenza di qualcun altro che si rallegra invece per la perdita del Sole 24 Ore, va bene. Però poi parleremo dell'andamento dopo nel commento di borse. Invece adesso con Luca Davi vorrei affrontare il tema di quanto capiterà tra mezz'ora, anche perché tempo che poi escano i banchieri, i rappresentanti dell'ACRI, dell'ABI, del Fondo Atlante, i vertici di Unicredit, Intesa e UBI, assieme al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e Padoan, il programma sarà già finito. Di che cosa si parlerà tra mezz'ora circa? Luca, se ho ben capito, di cosa fare a questo punto delle quattro good bank, ma perché? Sì, è un incontro inatteso, perché comunque è stato preannunciato giusto domenica, e diciamo che tanti temi sul tavolo, ma soprattutto uno, il più caldo, è quello relativo alle quattro good banks, che dovevano essere salvate, o almeno tre delle quattro dovevano essere acquistate da UBI. Questa era la direzione verso cui si stava andando. UBI aveva chiesto, posto alcune condizioni per salvare queste tre banche. La BCE si è messa di traverso e ha posto invece dei suoi contropaletti. Allora, nel dettaglio e brevemente, UBI sostanzialmente voleva acquistare queste tre banche, ripulirle dai crediti in sofferenza e recuperare le perdite derivanti dalla svalutazione di queste sofferenze, perché c'è una mole di sofferenze rilevante in queste banche, in crediti fiscali, spalmare insomma questi, recuperare in crediti fiscali. Ecco, da questo derivava un aumento di capitale limitato, contenuto e massimo fino a 300 milioni, BCE dice no, non ci sono condizioni per poter fare questa tipologia di operazione, sostanzialmente si chiede di più, si chiede quasi il doppio, si parla di 600 milioni. A questo punto quindi UBI pare faccia un passo indietro, sono questioni ormai delle ultime ore. Lo stesso presidente del Consiglio di Sorveglianza Moltrasio ha detto che non intendono fare salvataggi, convocato d'urgenza quindi questa riunione, che ovviamente discuterà di tante cose, ma anche di trovare una possibile soluzione. Quale soluzione? Beh, a questo punto bisognerà ragionare. È possibile che si cerchi insomma di guadagnare del tempo? È una possibilità, ma anche questo dovrà essere concordato con Bruxelles e con la BCE, quindi Francoforte. È possibile a questo punto che poi si vada verso un nuovo intervento di sistema, magari attraverso il fondo di risoluzione? Beh, anche questo però dovrà di nuovo essere discusso, e forse il fatto che ci siano comunque i rappresentanti di Unicredit, di Intesa, di UBI, che sono coloro che hanno garantito un prestito sostanzialmente per proseguire in questo salvataggio, non è escluso che magari si chieda sostanzialmente di proseguire in questa strada. Certo che non c'è niente di sicuro in questo momento, c'è il fatto che queste banche dovevano essere teoricamente salvate entro il 30 settembre, ma non si riesce. Si potrebbe chiedere, cercare quindi una soluzione più di sistema, ma questo ovviamente dovrà essere comunque autorizzato dalla BCE, e non è assolutamente sicuro che insomma si vada almeno al momento in questa soluzione. Dall'altra parte va detto che il governo e le banche vogliono evitare a tutti i costi di fare cosa? Di portare a perdite ovviamente l'eventuale salvataggio di queste banche, perché la prospettiva è che o da una parte le portino diciamo a partecipazione, magari intervenendo attraverso il fondo di risoluzione, oppure se dovessero svalutare completamente la loro partecipazione, allora ci sarebbero nuove perdite, e quindi è anche su questo che bisogna trovare ovviamente il punto di equilibrio. Certo. Non è facile. Ecco, questo è l'oggetto vero e proprio, cioè le quattro banche, quello che tu spiegavi, anche e soprattutto la parte che riguarda sostanzialmente il ruolo di UBI. Sullo sfondo però c'è l'ipotesi, insomma, che si ragioni anche, oltre che delle banche venete, a cui tu già facevi riferimento, del Monte dei Paschi? Cioè, sono sicuramente i due grandi dossier, ovviamente sono in questo momento le quattro banche regionali, perché c'è una scadenza a breve. L'altro grande tema, come dicevi giustamente te, è quello di Monte dei Paschi di Siena. Qua c'è l'amministratore delegato che sta lavorando su un suo piano industriale che dovrà essere presentato a breve al mercato, e ovviamente in questi giorni si sta ragionando con gli investitori ovviamente di recuperare insomma i soldi che dovranno permettere questo aumento. Ci riusciranno anche in questo caso a farcela? Diciamo che si prospetta un autunno caldo, perché ricordiamolo, si parte a metà ottobre con l'assemblea dei Banco BPM, certo. E da lì in poi sarà diciamo una roadmap piuttosto intensa, ricordiamo che tra l'altro tutto si intreccia anche con il referendum. Diciamo che da tutto il filone bancario dipenderanno forse anche, diciamo, senza dover ingigantire tutto, ma un po' di temi potrebbero diventare di rilievo anche, come dire, di dibattito politico. Quindi forse ci sarà sicuramente da monitorare di volta in volta tutto quello che sta accadendo. Allora, nel frattempo le banche, visto che di banche stavamo parlando, la borsa ha chiuso, restano a forti oggi Popolare di Milano più 2,60 e Banca Mediolanum più 1,30, anche Banca Popolare più 0,70. Debole invece Intesa San Paolo meno 2,30, Unicredit meno 1,70, Monte dei Paschi meno 1,5%. Dopo il GR24 resteremo in tema di banche, ma questa volta per un'inchiesta, o meglio per il rinvio a giudizio da parte della magistratura sulla vicenda Monte dei Paschi, vecchia gestione, con qualche anche polemica che oggi trovate sui giornali invece sulla nuova e corrente gestione e il ruolo di JP Morgan nel garantire l'aumento di capitale e di fatto il salvataggio della banca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Grazie intanto a Luca Davi. Grazie a voi. Tecnologie e logistica di magazzino Module Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti prima di arrivare alla borsa, dicevo del Monte dei Paschi di Siena. Dobbiamo distinguere due cose. Uno, sono alcune valutazioni, penso oggi a Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera e anche al deputato del PD Massimo Mucchetti, ex giornalista dell'Espresso, firma dell'Espresso, sul modo in cui si sta gestendo ora il Monte dei Paschi. Adesso non posso sintetizzare due articoli così importanti, ma insomma il dubbio è sull'opacità dell'accordo preso tra JP Morgan e il governo italiano e Matteo Renzi, accordo che avrebbe portato poi alla richiesta di allontanare Fabrizio Viola come amministratore delegato del Monte dei Paschi, fatta dallo stesso ministro Padoan al presidente Tononi, quale lo stesso Tononi poi si è dimesso. Richiesta un po' rituale, diciamola tutta, perché lo Stato ha il 4% del Monte dei Paschi, questa è la quota che ha il governo. Ma soprattutto capire a quanto ammontano le commissioni. Oggi Mucchetti fa un calcolo, se non ricordo male, di 1.250 milioni di commissioni complessive senza la garanzia del risultato. E poi in tutto questo viene chiamato in causa anche Morelli, perché Morelli lavorava in JP Morgan, adesso è il numero uno del Monte dei Paschi, ma viene fatto notare come fu lui a gestire non le due operazioni incriminate Santorini e Alexandria, quelle sui derivati, e di cui parliamo adesso perché sono oggetto del rinvio a giudizio, ma anche l'operazione Fresh, quella famosa che permise l'acquisto della banca Antonveneta a un prezzo obiettivamente assurdo, 9 miliardi per poi rivenderla a 3 miliardi, non si capisce, è un valore di mercato sui 3 miliardi. E anche su questo. Però il rinvio a giudizio, e qui bisogna essere molto precisi, riguarda i vecchi vertici del Monte dei Paschi nella persona, da un lato, del ex numero uno Giuseppe Mussari e poi Antonio Vigni, ex direttore, e Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza della banca senese. Li hanno inviati a giudizio il GUP di Milano Livio Cristofano. Il dibattimento dovrebbe iniziare il 15 dicembre e chiamerà anche in causa Nomura International, Deutsche Bank AG e la sua filiale londinese. Sara Monaci, che ha seguito fin da quando è scoppiato il bubbone tutta la vicenda del Monte dei Paschi, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa andrà a essere discusso? Perché le accuse, se ho ben capito, sono falso in bilancio, aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza. Parlerà soprattutto di quelle operazioni, quei derivati messi in campo per occultare le perdite che la banca stava già incamerando dopo l'acquisto a prezzo stellare di Antonveneta? Guarda, in realtà si parlerà di tutto, perché il fascicolo Fresh e Antonveneta, appunto come ricordavi, che era nato come fascicolo a sé a Siena, una volta trasferito a Milano, dove ricordo è stata trasferita tutta l'inchiesta proprio perché si è rivelato il reato di aggiotaggio, la manipolazione del mercato, che per prassi ormai va in procura a Milano perché qui c'è la sede della borsa. Ecco, in realtà è stato unito in un unico fascicolo, quindi Fresh, Antonveneta, derivati, Alexandre e Santorini fanno parte di un'unica grande inchiesta. Per cui i PM hanno deciso che la narrazione di questo periodo storico, che va dal 2008 al 2013, è tutta collegata. C'è stata una grande operazione, l'acquisto della banca padovana per, ricordavi, 8 miliardi, 9 miliardi in realtà erano 8 all'inizio, poi per sbaragliare la concorrenza presunta o reale, non sappiamo, di BNP Paribas si arrivò a 9 miliardi, poi in realtà con questi crediti inesigibili che Antonveneta aveva in pancia, il drenaggio di liquidità per il Monte dei Paschi è arrivata addirittura a 17 miliardi. Questa voragine costituita da questa operazione è stata poi in qualche modo abbellita con la rinegoziazione di questi due derivati che già esistevano, ma rinegoziati in modo peggiorativo proprio per abbellire durante quell'anno il bilancio, riuscire a dare comunque dei dividendi e quindi non far emergere questo problema e lasciare in sella saldamente ancorati sia l'ex presidente Vigni che l'ex DG Vigni e l'ex presidente Mussari. Questa, diciamo, è il cuore dell'inchiesta, la narrazione che viene fatta, quindi a processo in realtà vedremo tutto. E come tu giustamente ricordavi, oggi l'impatto, la presenza di JP Morgan, che sembra un po' un convitato di pietra dell'inchiesta, è ancora un po' stridente, perché ricordo Morelli che non è indagato, no. Fu indagato ma poi venne archiviato, in un primo momento fu indagato poi archiviato, era uno di coloro che aveva organizzato questo mitico Fresh, che era in realtà un convertibile, una obbligazione convertibile in azione, sostanzialmente dicono gli inquirenti l'aumento di capitale che lasciò la fondazione MPS in maggioranza e quindi con il controllo di MPS non era un aumento di capitale corretto, era un debito e non poteva essere considerata un'attività vera e propria. Questo Fresh fu emesso da JP Morgan. Allora Morelli era in Banca Monte dei Paschi e dopo questa operazione andò in JP Morgan. Ripeto, Morelli archiviato dall'inchiesta. Diciamo, esiste una questione che quasi viene sollevata oggi da De Borto, di quasi di tipo estetico, di trasparenza, non si parla chiaramente etico, di reati. Etico, non solo estetico. Sì, nel senso, estetico e quindi etico. Sì, estetico e quindi etico, nel senso che si dice, allora, per carità, Morelli è stato scagionato, per cui... Sì, sottolineiamolo, non c'è sottolineiamolo, era lì come direttore finanziario quando fu organizzato questa operazione Fresh che permise di far sembrare l'aumento di capitale, di non far diluire la quota della fondazione, e poi fu un'operazione a debito. E soprattutto faccio notare che ancora non sappiamo nulla del perché del Monte dei Paschi paga una cifra fuori mercato, da lì le ipotesi sono tantissime, Sara, perché paga 9 miliardi qualcosa che poi rivende a 3 miliardi, 6 miliardi. Non è mai stata realtà d'inchiesta. No, questa è stata una narrazione che è avvenuta contorno, per carità. Ma sono tante le considerazioni in realtà, alcuni dicono il mercato, altri dicono di no. Voglio essere molto chiaro. Da questo punto di vista, chiedere trasparenza non significa accusare nessuno. Per carità, il ruolo di JP Morgan è stato cruciale, lo abbiamo capito tutti, ci sono varie dichiarazioni di ogni genere. Allora, chiedere trasparenza, nel sapere qual è l'accordo, che cosa ha promesso JP Morgan al governo. Queste commissioni veramente devono essere pagate in questa formula, cioè senza la garanzia di un risultato per quello che riguarda aumento di capitale e comunque ripatrimonializzazione della banca? Questa è la domanda, non nessuno ha niente contro JP Morgan, però se tutto appunto è nella massima trasparenza, rendetecelo noto. Perché sennò allontanare un amministratore, chiedere l'allontanamento di un amministratore legato con la dimissione di un presidente, arriva Morelli, che la banca già ci aveva operato. Insomma, sì. Allora su questo meglio essere trasparenti, sennò poi nascono i sospetti, questo lo dico ai nuovi vertici del Monte dei Paschi, ma anche al governo. Il 15 inizierà con che tempi secondo te? Allora, si va, credo, abbastanza spediti, perché ricordo l'inchiesta è iniziata nel 2013, nel febbraio 2013, quello che noi mediaticamente conosciamo, probabilmente già qualche mese prima gli inquirenti ci stavano lavorando, quindi stiamo sfiorando i 4 anni di inchiesta con 2 procure in campo, il nucleo valutario della Guardia di Finanza, 4 anni di lavoro, immagino che anche proprio per mettere un punto fermo, credo che nel 2017 arriveremo almeno un primo grado. Il rinvio a giudizio è stato posticipato, ma vedo molto meno di altri tempi tecnici, di un mesetto, quindi in realtà anche gli avvocati nella loro tentativa di produrre materiale per rimandare poi non è stata così produttiva l'attività, quindi si arriverà al 15 dicembre, immagino in qualche mese almeno un primo punto fermo dovremmo arrivare. Diciamo che rinvia giudizio proprio perché l'inchiesta è stata lunga e complessa. e poi riunita appunto in una procura a Milano che ha un'esperienza nel settore finanziario, era un po' un fatto scontato, avrebbe sorpreso sinceramente il contrario, almeno il rinvio a giudizio è un atto dovuto. Ci sono 16 persone, lo voglio sottolineare, però l'aspetto significativo emerso soprattutto in procura a Milano è che in questo dissesto MPS una parte rilevante è stata giocata dalle banche straniere. JP Morgan è sempre rimasta, diciamo, sullo sfondo, poi diciamolo in tutta sincerità, a volte le inchieste si intuiscono, si capiscono delle cose, però i reati non si riescono a dimostrare o comunque diventano altri prioritari rispetto ad altri, per cui esiste una narrazione che poi viene sfilacciata e poi ad oggi arriviamo con l'aggiotaggio. C'erano tanti racconti quando l'inchiesta iniziò. JP Morgan al momento non ha nessuno, però ebbe un ruolo importante almeno nell'organizzazione. No, infatti chiamati in causa saranno Nomura International, esatto, Deutsche Bank che e la filiale londinese. Voglio dire, è un fatto importante perché Nomura fu chiamata in causa a Siena, Deutsche Bank per la prima volta la vediamo con dei nomi e dei cognomi di dirigenti, non soltanto la banca ma proprio dei dirigenti apicali chiamati in causa a Milano, quindi avremo gli ex vertici di MPS ma anche importanti dirigenti, dipendenti o ex dirigenti, perché molti non guarda, sono più ti interrompo nel salutare e ringraziare perché poco fa, anzi ora è uscito un flash di agenzia in cui il ministro Padoan dice non c'è nessun ruolo intrusivo da parte del Tesoro nella vicenda Monte dei Paschi, riferimento a quanto scritto e letto in questi giorni. Grazie, intanto Sara Monaci, ho il traffico. Focus Economia. E allora andiamo sulla borsa, oggi neanche i migliori peggiori, ma aspetti un attimo, ma perché abbiamo dato i conti del sole in apertura, la semestrale, è il peggior titolo oggi in borsa, cosa volete che vi dica, che sono contento che il gruppo in cui lavoro abbia dei conti in peggioramento, dell'entità che abbiamo visto, ma non stiamo scherzando, nessuno di voi penso sarebbe contento di sapere che è peggiora il conto economico del gruppo in cui lavora, e partiamo proprio dai migliori peggiori, tranquilli. Peggior titolo oggi in borsa, che è 16 anni che facciamo questo programma, meno 10%, sole 24 ore, 45 centesimi di euro. Miglior titolo in borsa, Accelero più 10%. Allora Michele, Radio Corriere sole 24 ore, buonasera. Buonasera. E allora ricordiamo i conti del sole, netto peggioramento della semestrale a 49.800.000 euro da perdita. Sì, esatto, infatti i conti del semestre hanno ovviamente penalizzato il titolo del Sole 24 Ore, adesso poi il mercato è in attesa degli sviluppi e del piano industriale. Andiamo avanti, ancora sugli altri titoli, invece oggi tra i titoli maggiori Azimut più 4,20, Pop Milano più 3,20, Fiat Chrysler più 1,20, Banca Mediolanum più 1, Banca Popolare più 0,80%, Iux più 0,80%. Azimut e Pop Milano, fronte opposto invece per A2A meno 4%, Luxottica meno 3%. Sì, oggi infatti è stata una giornata innanzitutto dove anche il FTSE MIB ha più volte cambiato la direzione di marcia, poi nel pomeriggio ha iniziato a perdere quota segnando la performance peggiore d'Europa, trascinato in basso proprio dalle banche e inoltre da alcune blue chips come hai citato tu, A2A e anche la stessa Luxottica. Mm-hmm. Per quanto riguarda le banche ovviamente c'è molta apprensione anche perché oggi si è tenuto un incontro tra Padoan e i vertici dei principali istituti, i vertici dell'ABI, i vertici dell'ACRI, ossia dell'Associazione delle Fondazioni, quindi stanno uscendo adesso le prime notizie. Invece comunque si può dire che nel pomeriggio hanno repentinamente virato al rialzo le azioni del Banco Popolare più 0,86% e soprattutto quelle della BPM più 3,2%, a questo punto è scattato il conto alla rovescia per la fusione dei due istituti che dovrà essere discusso e approvato dall'assemblea del 15 ottobre. Allora andiamo avanti con altri titoli oltre a quelli che tu citavi, da questo punto di vista bene oggi anche i titoli petroliferi, il petrolio oggi è in risalita. Telecom Italia invece? Sì, Telecom Italia oggi ha imboccato la strada del ribasso, è stata debole, meno 0,95%, nonostante peraltro proprio venerdì scorso al termine del consiglio di amministrazione l'amministratore delegato Cattaneo abbia fornito indicazioni positive sul fatto di come stanno procedendo i lavori per il rilancio della società. D'altra parte in questo caso è stato soprattutto il giudizio degli analisti di Berenberg, diciamo, a far scattare gli ordini in vendita. Analisti che fino a poco tempo fa erano stati positivi hanno cambiato idea e hanno iniziato a dire che in verità è da mettere in conto la pressione della concorrenza sia sulle linee fisse sia sul mobile, e quindi hanno rivisto un po' le valutazioni di Telecom Italia. Allora, andiamo avanti anche con gli altri migliori e peggiori della seduta. Go Internet più 9%, City Biofarma più 5,50%, Benistabili più 5%. Il fronte opposto invece, oltre al Sole 24 Ore appunto, Enertronica meno 8%, Industria Innovazione meno 5%, CHL meno 4,50%. Grazie intanto a Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Qualcuno scrive: forse il Sole perde perché pagano troppo lei. Guardi, se fosse così avremmo già risolto il problema di bilancio e probabilmente non starei conducendo su. Comunque, magari fosse così, diciamolo in questo modo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto è dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiuso l'approfondimento di borse in cui abbiamo commentato anche i conti non buoni, lo dico che continua a scrivermi del Sole 24 Ore, andiamo invece su un settore che è un settore trainante della nostra, del nostro export. Mi riferisco all'occhialeria. Perché? Perché oggi si conclude l'evento dedicato alla parte, diciamo, più di lusso e più di ricerca del mondo dell'occhialeria. I primi sei mesi dell'anno, dati Anfao, vedono l'export in aumento del 5%, anche se lontano dal 15% dei primi sei mesi del 2015. Vanno bene soprattutto gli occhiali da sole più 7%, in Europa più 7,7%, in Germania più 8%, Francia più 4%, Gran Bretagna più 5%, Spagna più 12%, America più 3,5%, Africa più 15,5%, Asia invece meno 1,3%. E il mercato interno ha dato anche comunque segnali di tenuta, più 6% per l'occhialeria e più 7% per le montature, per gli occhiali da sole più 6%, più 7% per le montature. E da questo punto di vista, ripeto, il DATE è l'evento che si concentra sulla parte più innovativa del settore, oltre 100 aziende da tutto il mondo, i brand più importanti, migliaia di visitatori. Siamo in collegamento con il vicepresidente di Mido Anfao, Giovanni Vitaloni, buonasera. Buonasera dottor Barisoni e buonasera a tutti i radioascoltatori. Senta, davo i dati sui primi sei mesi, da questa, dopo un anno 2015 particolarmente buono perché chiudeste con un ricavo in aumento del 12,5%, 3 miliardi e mezzo, e anche non solo l'export più 13%, ma anche il mercato interno ha fatto quasi più 6% l'anno scorso. State registrando un rallentamento quest'anno? Ma diciamo che c'è un consolidamento della crescita degli anni precedenti, anche perché il mercato interno aveva vissuto una forte depressione negli anni 2010, 11, 12 e dopodiché si è cresciuti a doppia cifra nell'ultimo triennio. Direi che in questo momento c'è un po' di rallentamento rispetto al 2015, però possiamo parlare in chiave positiva di consolidamento di quanto di buono è stato fatto negli ultimi 2-3 anni. Ma che cos'è che, perché a vedere i dati sembrano ancora tutti positivi, nel senso più che positivi nei primi sei mesi, che cos'è, è il raffronto con 2015 particolarmente buono o che cosa? Ma è stato sicuramente un 2015 eccezionale, con, lo diceva lei prima, con una produzione di circa 3,6 miliardi di euro, con un'esportazione forte in quasi tutti i mercati, quindi è stato un 2015 sicuramente eccezionale. Noi vediamo il 2016 come un consolidamento, come dicevo prima, del triennio precedente, quindi non c'è un vero e proprio rallentamento, ma un consolidamento, direi. Ecco, sui vari mercati, poi arriviamo ai consumi interni, nell'esportazione che tendenze state osservando? Nel senso che c'è complessivamente una tenuta molto buona dell'area euro, fuori dall'area euro? Ma fuori dall'area euro rimane, possiamo parlare del mercato americano, che certamente per l'occhieria è un mercato di riferimento, che mantiene le proprie quote con un leggero incremento. Sottolineerei il fatto che comunque le esportazioni sono trainate dal buon andamento degli occhiali da sole, comunque registriamo delle crescite che vanno dal 6 al 10% a seconda dei mercati, quindi l'occhiale da sole italiano sicuramente la fa da padrone. E invece sul mercato interno la tenuta, e devo dire tenuta è anche poco, forse riduttivo, perché tra il più 6 e il più 7%. Sì, sicuramente il mercato italiano sta tenendo, come abbiamo detto prima c'è stata una grossa sofferenza nel triennio 2010-2012, abbiamo recuperato e di questo siamo molto contenti, il mercato italiano sicuramente sta tenendo. A questo proposito magari possiamo fare un piccolo accenno a quello che è il DATEC, che è la manifestazione sì. Che abbiamo chiuso oggi, che siamo particolarmente contenti, orgogliosi di aver chiuso le porte, credo un'oretta e mezza fa, con circa 2.350 visitatori, con un 40% quasi più rispetto all'anno scorso. Quindi vuol dire che il mercato è assolutamente dinamico, c'è voglia di innovare, c'è voglia di crescere con questo evento da te, che è un evento promosso e cofondato da Dante Caretti e Cristina Frasca, che sono dei talent scout nel settore. Abbiamo raggiunto dei risultati d'eccellenza. Noi siamo riusciti oggi con questo evento, che è un B2B, quindi rivolto ai professionisti, comunque a coinvolgere una buona parte del mercato italiano, quello che fa tendenza, quello che vuole di crescere attraverso innovazione e creatività. Quindi per noi il segnale forte è la presenza di questi giorni in questo evento e la voglia di stupire. Ecco, sul fronte dei consumi interni dei mercati esteri, qual è la cosa che vi preoccupa di più invece? Ma certamente ci sono, a seconda dei mercati, dei problemi che possono essere legati alle valute. Poi ogni mercato ha delle sue specifiche peculiarità. Quello che ci preoccupa un pochettino, al di là delle, noi sappiamo che l'occhialeria italiana è leader a livello mondiale, quindi le grandi multinazionali, le grandi aziende sono sicuramente organizzate per fronteggiare situazioni di mercato altalenanti. Quello che ci preoccupa come associazione è il fatto di seguire e crescere insieme alle piccole e medie imprese attraverso un'attività di internazionalizzazione che ci consenta di essere competitivi su ciascun mercato. Quindi il fare gruppo, il fare squadra con il sistema Moda Italia per mantenere alta l'attenzione delle piccole e medie aziende, perché non dobbiamo scordare appunto che la maggior parte delle aziende italiane comunque nell'occhialeria esporta per dal 70 al 90% della propria produzione, per cui noi dobbiamo essere vicini a queste aziende, monitorare bene i mercati e aiutarle in un scenario che comunque da semestre a semestre può cambiare. Sì, e l'abbiamo visto anche diciamo nel rallentamento degli ultimi mesi, soprattutto le prospettive anche per quello che riguarda la fine di questo 2016. Comunque in bocca al lupo, come sempre facciamo a tutti i dipendenti che in Italia sono 17.000, tra l'altro non ho detto, ma vale la pena ricordarlo, che è uno dei pochi settori, in realtà nel 2015 qualcosa di più consistente si è mosso, ma uno dei settori che ha avuto un aumento degli addetti, più 6,5% nel 2015 sul 2014, per quasi 900 aziende coinvolte. In bocca al lupo a tutti, appunto, i dipendenti e alle aziende. Andiamo sul traffico e poi commentiamo in diretta praticamente i dati sul mercato dell'auto appena usciti, l'approfondimento con chi rappresenta gli infermieri della vicenda, l'ospedale di Vicenza, lo rimando semplicemente domani alle 17.20 in apertura del programma Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, i dati che stanno uscendo in questi minuti del settore auto, ma devo darvi anche una dichiarazione resa pochi istanti fa dal ministro dell'economia Padoan, un'altra dichiarazione sempre in tema bancario, gli ha chiesto se veda la necessità di nazionalizzazione nelle banche italiane. In alcune banche ha detto: io non vedo questa necessità e non vedo la necessità di alimentare idee strane che suscitano posizioni perentorie. Invece i dati sul mercato dell'auto a settembre. Allora, va bene il mercato, nel senso che fa più 17,5% immatricolazioni 153.000 contro le 130.000 di un anno fa, e a questo punto il dato su tutte le immatricolazioni da inizio anno vede il mercato crescere a 1.406.000 auto, il 17% in più rispetto allo stesso periodo, ai primi 9 mesi quindi del 2015. E andiamo però come sempre anche a analizzare i singoli marchi. Vedo già un flash agenzia per cui il gruppo Fiat Chrysler è andato meglio del mercato ancora una volta. La quota di mercato sale a questo punto al 29%. Dal 28,3%, e ancora il gruppo ha registrato appunto un più 20,5% con un mercato che ha fatto più 17%. Chiedo poi anche l'analisi dei singoli marchi a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, che spesso con noi commenta i dati sulle immatricolazioni. Buonasera Gianprimo. Buonasera Sebastiano. Era importante questo dato perché sappiamo benissimo che con la pausa estiva poi a settembre si cerca di capire come riaprono tra virgolette i concessionari, no? Per cui mi sembra che si confermi un anno più che buono, perché il 17% di oggi è assolutamente identico al 17% della media dei primi 9 mesi, più 17%. Sì, assolutamente sì, l'anno è decisamente buono, anche se c'è qualche marchio che continua a fare un po' di chilometri zero, poi lo sanno naturalmente anche gli altri perché c'è un effetto iniziativo, però il risultato sarebbe comunque un risultato molto positivo a due cifre. Questo ricorso ai chilometri zero, che poi alla fine si traduce in un vantaggio per i consumatori, anche se poi in uno svantaggio però per i concessionari perché riduce i margini, sostanzialmente arrotonda il risultato, che però è ottimo direi. Anche perché su base annua si prevede che arriveremo a 1.850.000 immatricolazioni, e devo dire la verità, nessuno l'aveva previsto l'anno scorso, neppure il famigerato Centro Studi Promotor, che è specialista in previsioni positive. Senti, andando ai singoli marchi invece, Fiat Chrysler, i singoli marchi poi dentro? Fiat Chrysler sta andando molto bene, come tu hai detto, cresce anche questo mese del 20,49%, cioè più del mercato, 20,49 contro 17,43. Premia la politica delle marche, di modelli, la Giulia e anche gli altri modelli naturalmente, e quindi direi che questo è motivo di consolazione per l'auto italiana, che è stata fortemente penalizzata negli anni passati. Nostro e degli americani il gruppo sta performando molto bene sia in Italia che in Europa. Senti, chi altro va bene tra i marchi? Beh, vanno bene tutti, perché in settembre praticamente gli incrementi sono distribuiti, direi a pioggia, su tutti i marchi. C'è chi cresce del 397% come Infiniti, c'è chi cresce decisamente meno, ma per dire Alfa Romeo 47%, Volkswagen 43%, Renault 33%, BMW 24 e via elencando. Direi che è un momento molto, molto positivo, ecco, per il mercato. Ecco, non si nota una divergenza o comunque un'indicazione sui tipi di modelli, cioè le fasce, intendo dire, in questo caso, non tanto i marchi. Fasce, diciamo, A, B, C, mi sembra che stia crescendo un po' tutto. Pronto? Sì, dico, mi sembra che stiano crescendo anche marchi legati alla fascia più medio-alta. Sì, alla fascia più medio-alta, anche se sostanzialmente se si fa il confronto con il livello, la situazione ante-crisi, c'è stata una certa diminuzione sia della potenza che della cilindrata. Ma quello che invece continuano ad essere penalizzati sono certe alimentazioni verdi. Alimentazioni me lo chiedono anche gli ascoltatori, come va l'ibrido per esempio? Vanno l'ibrido, sta crescendo abbastanza, però non cresce come si aspetterebbero gli ambientalisti, come si aspetterebbero quelli che hanno attenzione all'ambiente, ma soprattutto sono il metano e il GPL che non crescono particolarmente, perché la differenza di prezzo che vi è stata in passato si era molto assottigliata con il calo del prezzo della benzina, e quindi anche la convenienza ad acquistare questo tipo di alimentazioni era diminuita. Adesso il prezzo del petrolio ha ripreso a salire, quindi forse la situazione cambierà. D'altra parte, tutte queste alimentazioni alternative hanno bisogno di sostegni, quindi se non vi sono incentivi difficilmente riescono a conquistare spazio. Ecco, Gianprimo, un'ultima domanda, ma il dato italiano ha anche un corrispettivo nel dato più complessivo europeo? Questo direi assolutamente sì, il mercato dell'Unione Europea cresce, non come il mercato italiano, cresce un po' meno, ma cresce, e quindi probabilmente nel 2016 arriverà abbastanza vicino ai livelli antecrisi, ma bisogna considerare che però nel resto del mondo i livelli antecrisi sono stati dimenticati da molto tempo, perché la crisi è durata un paio d'anni, poi il mercato ha ripreso a crescere e continua a crescere. Anzi, quest'anno c'è un certo rallentamento dovuto al rallentamento della congiuntura mondiale, però abbiamo l'automobile che sta andando veramente fortissimo, e d'altra parte è sostenuta da un lancio di innovazioni a getto continuo di estremo interesse. Oggi si parla di auto a guida autonoma, ma si parla anche di incidenti zero, di morti zero sulle strade. Non sono più utopie, sono cose che ormai sembrano essere a portata di mano, insomma, ecco, girato la boa del decennio in cui siamo. Allora, staremo poi a vedere come si chiuderà l'anno, ma mi sembra di capire le tue parole che siete abbastanza a questo punto ottimisti, visto che mancano ancora 3 mesi, no? Sì, noi abbiamo stimato 1.850.000 e vedo dai comunicati di oggi che anche Mura è sulla stessa lunghezza d'onda, e quindi è un dato molto importante, molto interessante, anche se siamo ancora lontani circa del 25% dai livelli antecrisi. Bisognerà vedere quanto potrà crescere ancora, se il mercato l'anno prossimo crescerà ancora con questi tassi, tenendo conto che il quadro economico si sta rapidamente deteriorando. Come rallentamento, certo. Sì, e quindi faremo su questo a Roma il 7 ottobre, venerdì prossimo. Una tavola rotonda invitando i numeri uno delle principali case automobilistiche, e il quesito è proprio: ma con questa situazione dell'economia si può pensare che il mercato dell'auto continui a crescere a due cifre anche nel 2017? Bene. Io la risposta non ce l'ho, vediamo. Beh, se l'hanno adesso loro. Che ti sei anche autopromosso il convegno, io direi che quel collegamento lo possiamo chiudere. No, sto scherzando, Gianprimo. Grazie al direttore del Centro Studi Promotor, Gianprimo Quagliano. Allora, mi scrive Massimo in finale: scusate, magari ne avete già parlato, ma oggi non c'erano notizie non confortanti sul gruppo Sole 24 Ore. Eccoci qua, come no? È tutta la puntata che lo diciamo. Certo, il Sole 24 Ore, dopo la semestrale che ha visto un netto peggioramento dei conti, una perdita 49 milioni 800 mila euro, oggi è andato molto male in borsa. Le azioni sono state molto volatili, hanno toccato il livello più basso della quotazione dello scorso 6 dicembre 2007 e hanno perso il 10% in borsa. Peggior titolo della seduta sul titolo Sole 24 Ore pesa l'incertezza appunto sul futuro dopo la maxi perdita emersa dalla Polizia dei Conti e l'aumento di capitale ipotizzato, nonché la dimissione della maggioranza dei consiglieri dal Consiglio di Amministrazione. Queste le notizie che abbiamo dato, ridato e anche nel corso del collegamento con i mercati finanziari. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Chiedo venia al rappresentante degli infermieri, sarà nostro ospite domani. Radio 24, la passione si sente.